Italia in controluce. In studio Daniele Biacchesi per questa nuova puntata di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 del giornale. Oggi parliamo del duplice omicidio avvenuto due giorni fa a Milano, nel popolare quartiere di Porta Romana, dove sono stati assassinati Massimiliano Spelta e Carolina Suleini Paiano Ortiz. Ci sono alcuni dati certi: una moto, due persone, due caschi, due pistole, soprattutto una precisione di tiro quasi infallibile, 3 colpi e 5 colpi. C'è una fotografia che è stata scattata da una persona che abitava e abita vicino a via Muratori, che fa vedere i corpi delle due persone a distanza di una cinquantina di metri uno dall'altro. La prima a essere uccisa è stata Carolina Paiano Ortiz, e poi i killer non hanno risparmiato Massimiliano Spelta. È avvenuto intorno alle 19:55, uno scooter dei killer che li ha seguiti a breve distanza per almeno 5 chilometri dal loft di via Mecenate 84 con box e fino al punto della loro morte, della loro uccisione. Per questo poi sono partite le inchieste. C'è un altro dato certo: il ritrovamento di 47 grammi di cocaina. Aggiungo che ce n'è un altro ancora più importante, che la stragrande maggioranza della cocaina che arriva in Italia viene gestita di fatto dalla 'Ndrangheta. Allora noi innanzitutto ci colleghiamo con la prefettura di Milano, dove abbiamo inviato questa mattina Anna Marino. Che cosa è successo? Sì, buongiorno a te Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Qui stamattina alle 10 è stato convocato in prefettura un comitato di sicurezza per le due sparatorie che ovviamente in strada, che sono avvenute in meno di 24 ore, che non solo, come dicevi, hanno scosso Milano, ma anche hanno creato l'allarme sicurezza. Da più parti si è parlato di Far West, e qui ci sono state prese decisioni operative. Non si è voluto entrare nel merito delle indagini, anche se alcune indicazioni sono emerse, ma ovviamente sono state anche fatte delle precisazioni, soprattutto da parte del prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. Sentiamolo. Possiamo affermare che i due episodi sono scollegati fra di loro, specialmente il primo. Si è trattato di un singolo episodio che è maturato verosimilmente in un contesto che riguarda il traffico degli stupefacenti. In relazione a questo specifico fatto non possiamo dire che ci sia un'emergenza, perché è un fatto singolo e probabilmente ha delle origini e una meccanica ben precisa, ecco, che non si iscrive verosimilmente nel contesto della criminalità organizzata, e quindi bisogna approfondire, capire ovviamente, bisogna aspettare l'esito dell'indagine. La seconda è stato un episodio di quelli che talvolta avvengono ancora a Milano. Non è la prima volta che capita che queste formazioni, che probabilmente sono sudamericani o nomadi, fra di loro si, diciamo, scontrano in questo modo. Ecco, anche qui comunque sono in corso indagini approfondite e speriamo anche di avere presto dei risultati. Ecco, e un'altra vicenda è quella che è accaduta proprio nella giornata di ieri: altri colpi di pistola uditi in via Giacosa, all'angolo con via Pietro Crespo, in pieno giorno, nel traffico cittadino, in una zona affollata, e per fortuna, solo per caso, nessuno è rimasto ferito. Io ringrazio Anna Marino, che era in diretta dalla prefettura di Milano. Io sono in diretta con Giulio Cavalli. Buon pomeriggio Cavalli, consigliere regionale di SEL, attore antimafia sotto scorta dopo aver ricevuto ripetute minacce dalle cosche. Che idea ti sei fatto di questo duplice omicidio che, come avete sentito e come hai sentito, il prefetto, così come il questore, esclude che ci sia un'attinenza con quello che è accaduto in Pietro Crespo? Beh, innanzitutto perché non funzioni la tattica del terrorismo, la speculazione sensazionalistica e politica in questo momento è l'errore più grave che si possa compiere. quello che si sa è ovviamente che c'è una storia di cocaina. Sarebbe bello forse riuscire ad aprire gli occhi sul fatto che la Lombardia e Milano in primis è la base dello smercio della cocaina per un terzo di tutto lo smercio nazionale e che inevitabilmente un giro di soldi così ampio porti poi a una difficoltà di controllo anche di quelli che sono gli eventi più efferati e criminali. Ecco, ascoltiamo insieme l'intervista che ha fatto oggi Maria Luisa Pezzali a Riccardo Decorato, vicepresidente del Consiglio Comunale parlamentare del Popolo delle Libertà, è stato ex vice sindaco per molti anni della città di Milano. C'è stato un errore madornale in tema di sicurezza da parte di questa amministrazione, questo sindaco, quando nel luglio scorso tolse dalle strade oltre 400 uomini tra militari, polizie e carabinieri che erano dislocati in 34 vie di Milano. Certamente una connessione diretta non c'è tra la sparatoria di via Muratori e questa questione dei militari, ma l'aver dato un segnale alla malavita organizzata che si toglieva dalle strade di Milano uomini in divisa è stato un segnale di debolezza che la malavita organizzata ha immediatamente recepito. Tant'è che a gennaio scorso abbiamo avuto un vigile ammazzato da un SUV guidato da un nomade serbo e abbiamo ogni giorno a Milano decine di episodi di rapine, scippi, furti che avvengono senza che ci sia una reazione forte da parte dello Stato. In via Padova, dove si è sparato ieri, a pochi metri di lì c'era un defender con tre militari e due poliziotti e due carabinieri. Se ci fosse stato ieri, probabilmente quella sparatoria non sarebbe venuta. Si ottennero dei risultati, allora era la giunta Moratti con la presenza dell'esercito nelle strade? Ci fu un abbassamento dei reati, sono dati ufficiali questi della Questura di Milano, del 40% in zona stazione centrale. E tra il 2007 e il 2010 ci fu una riduzione dei reati intorno al 30-40% dei reati a Milano. Allora, Giulio Cavallo, ha sentito questa intervista di Maria Luisa Pezzali a Riccardo Decorato. Che idea ti sei fatto? Guarda, cerco di essere moderato, ma Decorato per l'ennesima volta intellettualmente disonesto, perché i segnali innanzitutto non avvengono con la presenza dei militari in strada, ma avvengono dando soldi alle forze militari che in questi ultimi 5 anni sono state distrutte. Non sarebbe avvenuto l'omicidio, dice lui, io lo correggerei, non sarebbe avvenuto lì. Non è la soluzione è il presidio etico e culturale. Il segnale etico e culturale grave non è il defender che non c'è più in via Padova, ma sono rappresentanti politici nelle istituzioni, anche nelle altre istituzioni, dice la Commissione Antimafia, anche in Regione Lombardia, che sono stati eletti con i voti dell''Ndrangheta, che sono coloro che oggi dialogano con i narcos per lo smercio di cocaina. 47 grammi di cocaina ritrovati nella casa di Massimiliano Spelta e di Carolina Paiano Ortiz, sono una traccia che può portare all''Ndrangheta? Dove c'è cocaina c'è 'Ndrangheta, questo ormai lo sappiamo tutti, l''Ndrangheta fin dagli anni 80 ha raggiunto credibilità, rafforzata poi dal pentitismo di Cosa Nostra, e sappiamo che invece i legami di sangue dell''Ndrangheta su questo sono una garanzia nonostante gli ultimi pentiti. Io credo che se vogliamo trovare un collegamento intellettualmente onesto, sincero e genuino al di là delle posizioni di partito, ecco, allora forse quell'omicidio andrebbe riletto anche nell'operazione Ulisse, negli ultimi 37 arresti nel locale di Giussano, antimafia, secondo l'operazione della Boccassini, nell'operazione Crimine Infinito di 2 anni fa. Oggi sicuramente l''Ndrangheta, che noi continuiamo a ricordare come su Milano stia felicemente riciclando, ha la grande disponibilità economica grazie allo smercio di cocaina. Grazie a Giulio Cavalli. L'uomo con la pistola aveva una maglietta chiara, i bermude scuri, la pelle scura, un casco chiaro con la fascia grigia, quello rimasto sullo scooter aveva una Huey azzurro, il casco grigio, un telo per coprire le gambe. Erano a bordo di una Vespa, avevano sgommato con una targa che inizia con BJ con 5 cifre e però immatricolata su una Honda CBR. E alle 19:58 e 4 secondi la telecamera della bottega li immortalamente sfrecciano, ma sono troppo veloci per cavarne fuori altri dettagli. Questo è il punto delle indagini sul duplice omicidio, che è stato anche il punto di oggi di Italia in Controluce. Ci risentiamo domani, mi raccomando, Facebook, il gruppo e la pagina, Twitter, la nostra mail per qualsiasi cosa, controluce@radio24.it.